Sai che questo non è tempo di confessioni e penso di non dover spiegazioni a nessuno. E per favore, non farmi i tuoi soliti commenti editoriali. Aspetta che abbia finito prima di fare la tua solita critica, ok? Sì, devo assolutamente raccontartelo. Ok, va bene, sorellina, va bene. Ero al The Prince and Poppers lo scorso maggio, ma posso ricordarlo come fosse stato un'ora fa. Sì, posso rivedere la scena in maniera così chiara. Eccolo lì, ad un solo tavolo di distanza. Lui era al terzo martini, prendendo pause così spesso fra le frasi per assaporare il costoso sigaro. Lo carezzava, quasi come questo potesse aiutarlo a procedere con le giuste parole. Qualcuno deve avergli detto che un sigaro e un martini fanno l'uomo. Non riesco a capire cosa faccia pensare all'uomo che riempire l'aria con gli effluvi di foglie bruciacchiate sia il biglietto per il letto di una donna. Perché, al di là di ogni dubbio, è questo il suo scopo. Lo so. E anche quella creatura impertinente che sta lì con quei due grandi occhioni di fronte a lui lo sa. Ma tutti noi facciamo finta di non saperlo. Come fai tu con Jerry, cara? Oh, nessuna offesa, nessuna offesa. Insomma, lui le sta parlando del suo lavoro. No, anzi, della sua carriera. Prestando a indicare con attenzione, con i gesti e con le parole, che quello che fa non è niente di che, mentre allude al suo futuro, che sarà più brillante di una supernova. Inoltre, solo un uomo con un quoziente intellettivo più che decente potrebbe essere in grado di mettere mano a un lavoro di questo genere. No, anzi, una carriera. Un afrodisiaco senza tempo. Un uomo innamorato del suo lavoro che recita il ruolo del modesto. Così lui è nell'informatica. Oh, Claire, non chiedermi cosa in particolare. Computer, computer, computer. Lei, dalle scarpe costose e i capelli appositamente scompigliati, spalanca un po' gli occhi a queste parole. Questo mi ricorda di una coppia di una decina di anni fa, di come i nostri occhi luccicavano le parole procuratore o dottore. Ma guarda dove ci ha portato questo discorso. Comunque penso che il sigaro e il martini facciano parte della missione di questo singolo uomo di dimostrare che non tutti gli uomini nell'industria dei computer siano degli ex sfigati. Ma lui non mi inganna. Quei denti sbiancati ne hanno visti da parecchi. Sotto quella tintarella in bottiglia e quei muscoli da attrezzi da casa batte il cuore di uno scheletrico, di un dentone che sa perfettamente cosa vuol dire essere la vittima delle cattiverie di un bullo. Quando si emoziona riesco addirittura a riconoscere i tratti di una appena abbandonata balbuzie. Ora rivolgo il mio sguardo verso di lei. Lei si sta sbilanciando verso di lui. Ah, guardatela, tenendo la testa in basso per far vedere di starlo guardando con ammirazione. Inoltre ha il sorriso fissato in modalità «sono una delle più carine». Questo per farvi capire che lei sa perfettamente che tutti gli uomini pensano che ogni donna sia una puttana. Ma lei, proprio lei, è l'eccezione. Ma lei non mi inganna. Quegli zigomi mi dicono che c'è una puttanella anche dentro di lei che sta giusto urlando per uscire fuori. I suoi occhi un po' vitrei mi vanno dicendo che lei va paragonando l'omino dei computer con tutti gli altri imbecilli con i quali è uscita ultimamente, calcolando quanto potrebbe spillargli e quanto per questo lui potrebbe essere un potenziale marito. Insomma, Claire, mi capirai, i soliti discorsi da primo appuntamento. Come se lui avesse letto nella sua mente, ha intelligentemente menzionato il recente acquisto di un televisore full HD e di una macchina nuova. E avete sentito? Ha degli attrezzi da casa. Ora scrolla le spalle, come per scusarsi del suo successo attuale. Poi una nuova scrollata di spalle, lasciando cadere lì il commento che il prossimo anno sarà migliore. Mancano solo 15 minuti prima che inizi a dirle che tutte le donne con le quali ha avuto un appuntamento non si sono rivelate nient'altro che delle approfittatrici che miravano al suo portafoglio, senza prendere in considerazione la sua umanità. Ma lei saprà sicuramente come reagire. D'altronde, lui non sta nient'altro che facendo compere, e lei... Lei non fa nient'altro che mettersi in vendita. Il fatto che non stia facendo domande diverse dalla marca del televisore full HD o dal colore della sua macchina nuova mi fanno capire che lei non è interessata a chi sia realmente quest'uomo. D'altronde, perché dovrebbe? Lei gli ha dato appuntamento molte altre volte, con nomi e con facce diverse, sì, ma sempre uomini erano. Devo ammetterlo, Claire, sono stata presa da un momento di sincera pietà per lui. Poi l'ho visto che strabuzzava gli occhi guardandole nella scollatura e ho ricordato a me stessa, quid pro quo, niente per niente. Diavolo, questa è solo l'antica danza dell'accoppiamento. Potrebbero essere seduti in mezzo a un cerchio nella savana e, credimi, Claire, non cambierebbe proprio nulla. Lui starebbe facendo la sua danza rituali con le parti basse al vento e un grosso sorriso sulla faccia, non su. Vabbè, e lei lo starebbe guardando senza troppa attenzione, indossando giusto un gonnellino. E il resto di noi sarebbe seduto in cerchio, battendo dei legni sulla nuda terra in maniera, devo dire, molto suggestiva. Mi sento davvero un'antropologa a questo punto. Noi antropologi, Claire, abbiamo una regola, sai? Non possiamo interferire con i rituali dei nostri nativi. E così io bevo il mio TNT e osservo, osservo, osservo. Avete sentito? Questa è la battuta d'inizio di I Am the Only One, di Melissa Etheridge, che naturalmente voi tutti conoscete. Ecco un gruppo di segretarie sulla trentina che urla alla barista: «Ehi, alza il volume, Jerry!» E lei lo fa. Mi domando, se fosse stato un uomo, l'avrebbe fatto? Insomma, i ragazzi che sono venuti a prendersi delle birre sono infastiditi. La musica è troppo alta per loro, ma alle segretarie non importa nulla. Una urla «Yeah!» e iniziano a ballare in moto convulso, ma più che altro è un roteare. Cantano la canzone, ma naturalmente non conoscono tutto il testo. Saltano le parole, ne inventano di nuove per sostituirle. Al ritornello alzano il loro happy hour margaritas da 99 centesimi in un gioioso saluto. Ma torniamo ai nostri due soggetti. Lui si spinge verso di lei, non vuole perdere il momento, ma lei ha iniziato a guardare le segretarie che hanno cominciato a ballare. Una ha afferrato un coltello e lo sta usando come microfono. Così lei sorride, lui fa una smorfia e lei cambia il suo sorriso in beh, che ci posso fare. Ma il suo piede in una scarpa con un tacco da 12 centimetri ha iniziato a battere il tempo del dolore di Melissa e il magma nel movimento risale sulle sue gambe e tutto il corpo inizia a muoversi sul divanetto di pelle rossa. Lei è dubbiosa, dovrebbe semplicemente cogliere il momento ed essere con Melissa o concentrarsi sulle manie di grandezza dell'omino dei computer. Per la prima volta da quando ha iniziato a osservarli, la sua simmetrica faccia ha incominciato a svegliarsi. Intorno agli occhi le rughe della risata e sulla faccia finalmente un vero sorriso. La voce del tizio dei computer alza di volume. Vuole competere in volume con Melissa. Povero sciocco, vorrei urlargli. Tu non puoi competere con noi. Con noi donne, sì, che siamo disposte ad attraversare il fuoco per raggiungere l'oggetto del nostro desiderio. Tu non lo prenderesti nemmeno in considerazione, vero? Tu manderesti un'email animata pensando di aver fatto chissà cosa. Regaleresti una singola rosa a San Valentino lodando la tua originalità. Un gran bel gesto sarebbe portarla fuori per festeggiare la tua promozione. Ora torno a guardare lei. I capelli arricciati ad arte le stanno cadendo sopra gli occhi. Sotto la loro copertura torna a sbirciare le segretarie, che cantano fuori dal coro a tutta voce, e le loro smorfie condividono conoscenza reciproca. E come le parole, sono una sorta di codice segreto per una congrega clandestina, una congrega veramente pericolosa. Mentre guardo lei penso: tesoro, cosa stai facendo? Perché sei pronta a venderti ad un uomo che beve martini extra extra secchi? Questo non ti colpisce come una meteora? Il tuo piccolo piede che batte il tempo e il tuo dolce corpo che balla ti tradiscono dolcezza. Quegli incisivi affilati sono fatti per mordere la carne. Tu vuoi la passione, tu vuoi una cavalcata selvaggia. Sai che la vita è corta. Lui non è per te, non per molto comunque. Lui non può neanche immaginare parole come quelle che Melissa sta cantando. La furia, l'ossessione, l'ironia. Tu ed io, beh, noi sappiamo che Melissa è una che otterrà ciò che vuole. Solo una donna può provare queste sensazioni, può comunicarle. Lei non sta chiedendo, lei sta raccontando. Lei non finge di essere interessata al software. Lei è cablata per l'amore, la dolcezza. Io so che se una stronza cantasse una canzone come questa per me, o anche solo scrivesse una canzone come questa, io so che la seguirei ovunque. Anche tu. E improvvisamente io ti voglio, stronza dai capelli scompigliati, ti desidero. Si fotta la prima direttiva dell'osservazione antropologica. Sto per uscire da questa sedia e strapparmi la camicia. Andrò fino a lei e battendo il mio petto sfiderò Mr. Software ad un gioco di grugniti e pugni. E allora, quando avrò reso chiaro che quello è il mio territorio, ti prenderò tra le mie braccia e ti trascinerò fuori da questo bar come un ufficiale e una gentildonna. Perché qualcuno ha bisogno di essere salvato e io voglio fare il salvataggio. Io voglio salvare il tuo inevitabile bambino dai denti storti e dai troppi giocattoli, dall'inevitabile disagio, dell'inevitabile divorzio, che accadrà quando tu avrai realizzato che lui non si getterà nel fuoco per niente e nessuno, e tu inevitabilmente. Sarei stanca di far finta di essere interessata. E lui, inevitabilmente, troverà una meno stanca, che non si lamenta se fuma sigari in casa. Io voglio che la tua faccia non sia mai più una simmetrica maschera perfetta. Io voglio espugnare quel piccolo sorriso sghembo e quelle sensuali rughe da risata e sentire quei piccoli denti mordere la carne e vedere quel corpo danzare nudo a melissa e tirarti su mentre agiti quei fianchi sensazionali e soddisfatta canti in Solly Fear That Makes You Run. Ma il battere scende sul sistema audio. La musica è finita. Le segretarie brindano e battono il 5 in un l'altra. I ragazzi delle birre si dirigono verso gli snack gratis. L'omino dei computer fa lampeggiare i suoi denti sbiancati per chiamare un altro drink. Capelli scarmigliati, tira un sospiro di sollievo. Il pericolo, imminente, è passato. La sua faccia, di nuovo una simmetrica, maschera, perfetta. Fatta, finita Claire. Loro sono salvi. Ma io no. Dovrò convivere con il ricordo del momento epifanico che ho appena vissuto. Devo combattere con le lunghe e dormienti fantasie che Melissa ha risvegliato in me. Devo prendere delle decisioni. Ok, sarà un divorzio orribile e Michael ed io dovremmo vendere la casa. E sì, perderò il mio giardino. Ma ehi, acquisterò un loft e dipingerò le pareti con colori brillanti. Potrei riprendere la mia passione per la fotografia e un gatto. Finalmente i miei capelli diventeranno grigi. E lo so, sarà difficile per un po'. Mio marito non capirà. I ragazzi non capiranno. E mia sorella, Claire, beh, lei decisamente non potrà capire. Lo faresti, Claire? No, giustamente, me l'ho chiesto. Voglio fare una scommessa, sorellina. Voglio scommettere con te che nostra madre capirà. Cara vecchia mamma, lei ha sempre avuto i suoi sospetti, vero?